30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La pazienza degli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano è quasi finita. Lo dice il portavoce della Casa Bianca, che rinnova l'accusa americana a Teheran. L'Iran non fa nulla per coltivare la fiducia della comunità internazionale. Dal Brasile, intanto, Lula da Silva getta acqua sul fuoco. Il presidente del gigante sudamericano chiede alla comunità internazionale di non isolare l'Iran, minacciato dalle nuove sanzioni, e dice: la pace mondiale non passa per l'isolamento di chi che sia. Labirinto Iran, tra ipotesi di pace e di guerra. Da oltre 30 anni è una battaglia di parole, di minacce, talvolta una confrontazione sanguinosa tra l'Occidente e il grande paese asiatico. Intorno all'Iran si invocano tutte le ipotesi e tutti gli strumenti dell'armamentario geopolitico: persuasione e dialogo, attacchi militari o addirittura invasione, l'intervento di Israele e l'insurrezione popolare, il sostegno ai gruppi dell'opposizione, il colpo di Stato militare oppure a volte il ricorso alle più classiche misure di contenimento. L'attualità dunque accende nuovamente i riflettori sull'Iran. La politica la mette al centro di vertice di summit, ma probabilmente saranno gli affari a decidere del suo destino. Quanto vale Teheran? Per chi vale? Per cosa vale? E chi rischia di perdere di più se la situazione scivola fuori dal controllo? Questo è il tema del nostro appuntamento di questa sera, che ci porta dunque ancora una volta oltre la cronaca. In studio con me c'è questa sera Alfredo Sessa, collega di Mondo e Mercati, la finestra aperta sul commercio e l'economia internazionale del Sole 24 Ore. Buonasera Alfredo. Buonasera. Dunque, quanto vale innanzitutto questo paese? Stiamo parlando di un paese che ha circa 70 milioni di abitanti, ma direi importante sottolineare subito una crescita demografica molto elevata, una popolazione dunque che cresce rapidamente, una popolazione giovane con un tasso di alfabetizzazione che è prossimo al 90%. Dunque, quanto vale in termini commerciali l'Iran? Allora, per l'Italia l'Iran vale più di 4 miliardi di euro in termini di interscambio, un interscambio che vede l'Italia con un passivo zavorrato dalla bolletta petrolifera, che però vede anche un export italiano che prometteva molto bene intorno al 2005, al 2006, era in forte crescita, e che invece a causa degli eventi politici ben noti, le tensioni internazionali, è andato progressivamente spegnendosi. Ma il vero valore dell'Iran è nella sua popolazione. Una popolazione, come accennavi tu, molto giovane, dinamica, interessata ad aprirsi al mondo, a crescere, a specializzarsi. E l'altra, diciamo così, assicurazione sulla vita, per chi intende occuparsi dell'Iran dal punto di vista economico, commerciale, degli investimenti, è che l'economia iraniana, intende diversificare rispetto a petrolio e gas e svilupparsi nei settori manifatturieri e dell'alta tecnologia. Ecco, torneremo naturalmente sull'Italia. Per dare un valore complessivo, è possibile, l'Iran oggi mi risulta essere intorno al 17esimo posizione per il PIL internazionale, sul fronte internazionale. Hai parlato di 4 miliardi per l'Italia. Ecco, sul piano globale è un attore economicamente pesante? Assolutamente sì, un attore economicamente pesante, non a caso ha riscosso l'interesse e l'attenzione di tutti i grandi blocchi economici mondiali, solo che come sappiamo negli ultimi tempi Europa e Stati Uniti hanno fatto un passo indietro e questo rischia di aprire la strada ad altri attori. Ecco, ci arriveremo senz'altro, ma cerchiamo di rimanere un momento un po' sul profilo economico iraniano. Diciamo istintivamente pensiamo a petrolio e gas. Petrolio e gas, il discorso generale sulle riserve cambia anche col tempo, ma insomma sostanzialmente credo che si parli del secondo paese per riserve petrolifere nel mondo, un numero, esatto, una classifica sufficientemente impressionante. Direi che è soprattutto il gas che pone l'Iran in primo piano, non a caso tutti i più grandi gasdotti hanno l'Iran come crocevia internazionale. Un grande crocevia, petrolio, gas soprattutto, l'abbiamo sentito, ma che cosa c'è? C'è dell'altro oltre al grande mercato degli idrocarburi? C'è molto di altro, forse non è noto a tutti che in Iran c'è una interessante industria automobilistica. Ovviamente si tratta di impianti che assemblano modelli, vetture ideati da case asiatiche o occidentali, però questo è uno dei settori dell'industria iraniana in più rapido sviluppo. L'Iran ovviamente, grazie alla sua posizione geografica, si candida poi a paese esportatore in tutti gli altri stati circostanti. Quindi automobili, cos'altro? Industria delle telecomunicazioni. L'Iran sta sviluppando con una certa continuità il settore delle telecomunicazioni e non a caso guardava l'Italia come a paese fornitore di apparecchiature e tecnologia in questo settore. Ogni volta che penso alle telecomunicazioni penso ai satelliti, penso ai vettori per portarli in orbita, un altro grande capitolo che in questo momento lasciamo da parte, però è chiaro che avere un'industria delle telecomunicazioni moderne significa anche per un paese come l'Iran avere gli strumenti per diciamo sostenere questo suo mercato. Assolutamente sì. Ma non dimentichiamo che oltre alle nuove tecnologie l'Iran era visto, e speriamo che continui a essere visto, come mercato di destinazione anche di produzioni classiche dei distretti italiani. Mi viene in mente in questo momento la ceramica. Il settore della ceramica è uno dei più interessanti e sviluppati in Iran e si collega ovviamente al settore dell'edilizia e delle infrastrutture. Insomma, non solamente razzi, non solamente petrolio, ma una realtà che ora andiamo ad affrontare con Alfredo Sessa, perché ciò che è interessante anche di questa vicenda è che l'Iran appunto è molto di più che un grande produttore di petrolio. Prima però facciamo un passo indietro nella storia. Gennaio 1979, al termine di un lungo periodo di violenti dimostrazioni del movimento sciita, che né il governo né le forze militari costituite dallo Shah riescono a frenare, l'Ayatollah Khomeini rientra trionfalmente in Iran dall'esilio parigino. Lo fa volando a bordo di un charter di Air France che la compagnia francese mette a disposizione del leader religioso. Credo che chi almeno ha più di 35-40 anni ricorda quantomeno un'immagine di quest'uomo vestito di nero con la grande barba bianca che scende da questo bianchissimo aereo di Air France. Beh, è uno spunto per riprendere il nostro discorso sugli investimenti. Allora vorrei chiedere ad Alfredo Sessa innanzitutto alla Francia, che ha dunque ospitato negli anni 70 la diaspora iraniana. Negli ultimi 30 anni ha poi sfruttato questa sua posizione di privilegio? La Francia ha riscosso un dividendo forse inferiore al previsto, dopo aver accumulato meriti, diciamo così, per aver ospitato la diaspora iraniana. Infatti, se noi guardiamo a quelli che sono i principali partner commerciali dell'Iran, vediamo al primo posto Germania e Italia, che in questi ultimi anni si sono scambiati le posizioni alternandosi tra il primo e il secondo posto. La Francia appare più nelle retrovie, ovviamente rimane un grande paese interessato a questi mercati, ma evidentemente non è riuscito a, far penetrare sul mercato iraniano le sue imprese, sono soprattutto grandi imprese, mentre l'Italia, con le sue piccole e medie imprese, accanto ai grandi gruppi petroliferi delle infrastrutture, è riuscita ad acquisire dei crediti di simpatia e di interesse da parte degli iraniani. Ecco, naturalmente nelle ultime settimane in particolare i rapporti si sono fatti tesi, ci sono stati uno scambio di comunicazioni a livello ufficiale, una manifestazione molto aggressiva a Teheran nei confronti appunto degli edifici di fatto diplomatici italiani. Ma torniamo su un punto che ritengo molto interessante: grandi gruppi, ma non solamente. Ci accennavi prima a piastrelle, ci accennavi insomma a quel mondo della piccola e media impresa che poi è la forza del tessuto connettivo economico italiano. Sì, se noi analizziamo brevemente qual è l'interscambio italiano con l'Iran, notiamo che l'Italia esporta soprattutto macchinari industriali, apparati meccanici, cioè tutto quello che l'Iran vuole utilizzare per diversificare la propria economia e costituire un'industria nuova, moderna, alternativa o complementare rispetto a petrolio e gas. Ecco, purtroppo proprio il settore delle apparecchiature meccaniche industriali è quello più sensibile alla decisione di introdurre eventuali sanzioni sul mercato iraniano. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque per parlare con Alfredo Sessa, collega di Mondo e Mercati, di Iran, ma soprattutto dell'economia di questo paese e degli interessi. Eravamo sul tema Italia, il rapporto e le opportunità dunque della piccola media impresa in queste fasi complesse. Ecco, io credo che sia interessante andare a vedere sul terreno pratico, concreto, quali possono essere gli intralci per le imprese italiane se dovessero essere introdotte nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. Come accennavo, l'Italia esporta soprattutto apparecchiature industriali e meccaniche, un settore abbastanza delicato perché si presta all'utilizzo sia per produzioni civili sia militari. Quindi sarebbe il settore decisamente più penalizzato dalle sanzioni, e non a caso il nostro export in questo settore sta progressivamente declinando. Ma ci sono anche altri aspetti che riguardano i grandi gruppi questa volta. L'inasprimento delle sanzioni porterebbe a difficoltà nel reperire i fornitori di materiali, di materie prime, di componenti che vanno ad alimentare poi i grandi progetti infrastrutturali guidati, coordinati, realizzati dai grandi gruppi italiani. Ecco, questi sono, diciamo così, i due caposaldi degli interessi italiani in Iran che potrebbero essere penalizzati. Abbiamo, come dire, sorvolato su un elemento, ma una domanda è d'obbligo: perché gli americani non temono l'idea, l'applicazione delle sanzioni in Iran? Evidentemente perché le loro imprese sono già distanti dal mercato iraniano, lo boicottano già da tempo e quindi non vedrebbero espulso il mercato iraniano dal raggio dei loro interessi. Economicamente non hanno nulla da perdere. Assolutamente no. Del resto basta un dato per capire quello che sta succedendo. Fino a una decina di anni fa il valore totale dell'interscambio iraniano col mondo era di 80 miliardi di euro circa, e l'Europa era al primo posto in questo interscambio. Oggi l'interscambio iraniano col mondo è cresciuto, è arrivato a toccare i 130 miliardi di euro, ma l'Europa è scomparsa dal primo posto e al primo posto ci sono invece i paesi emergenti. L'interscambio dunque cresce, il valore economico dell'Iran complessivamente aumenta nonostante gli anni di guerra, nonostante l'instabilità, nonostante la complessità delle relazioni. Cambia però la distribuzione e il peso: da una parte l'Europa che dominava, possiamo dire, la scena, gli Stati Uniti che, per ragioni appunto storiche che abbiamo citato, in realtà svolge un ruolo, diciamo, insolito per le sue dimensioni e per il suo peso, ma emergono nuovi protagonisti. Ora ritorniamo un attimo al discorso dei gasdotti. In questa fase uno di questi una di queste costruzioni, di queste pipeline critiche, porta verso Oriente. Insomma, l'equilibrio di questo paese, e non solo, possiamo aggiungere, si sta spostando in primo luogo verso la Cina. Che succede? Succede questo. Io partirei ancora da un esempio concreto. Quando gli imprenditori iraniani vengono qui in Italia in missione, ci dicono una cosa ben precisa. Ci dicono: guardate, voi italiani ci state molto simpatici, noi lavoriamo volentieri con voi, anche perché durante il conflitto tra Iran e Iraq gli italiani non hanno abbandonato il mercato iraniano. Quindi voi avete un credito nei confronti del mercato italiano, iraniano, scusate. Però attenzione, se voi vi allontanate, se voi vi allineate al boicottaggio, ci sono altri protagonisti pronti a prendere il vostro posto. E questi protagonisti sono i cinesi, i brasiliani, gli indiani, tutto quel mondo emergente che ha fatto parlare di sé in questi ultimi anni e che è diventato un protagonista di primo piano nell'economia internazionale. Ecco, in che modo, cominciando dalla Cina, il grande gigante appunto dell'Asia, la seconda economia del mondo, si sta sostituendo agli attori tradizionali, o almeno quelli che erano tali nel Novecento? In un modo molto semplice. Alcuni etichettano questa politica cinese come la politica degli stadi. Serve a dire che i cinesi costruiscono infrastrutture gradite, necessarie alle popolazioni dei paesi, degli altri paesi emergenti, e in cambio ottengono materie prime, facilitazioni negli investimenti, grandi appalti per infrastrutture, eccetera. Quindi è un interesse reciproco, spesso ottenuto a basso costo, poco attento a quelle che sono le tensioni internazionali, agli interessi politici in gioco. Quindi la sostituzione è rapida, immediata, e basta esitare, rallentare per vedersi sottrarre fette di mercato. Nel lancio con cui iniziamo normalmente questa trasmissione ho citato il presidente del Brasile, Lula da Silva, che, come forse ricordate, ho detto getta acqua sul fuoco, dice non è isolando un paese che si risolvono le questioni. Poi però nel messaggio che Lula da Silva ha diramato questa settimana c'è anche un'aggiunta, e dice che il prossimo anno gli scambi commerciali e le esportazioni brasiliane verso l'Iran, che oggi ammontano $1 miliardo, sono destinate ad aumentare anche grazie a un viaggio ufficiale, quindi di primo livello, che il presidente brasiliano farà in Iran. Insomma, il mercato non è disponibile a, come dire, a pazientare anche forse sulle incertezze che sono, riguardano particolarmente l'Europa. La sostituzione, come ci dicevi, è immediata. Assolutamente sì. L'esempio del Brasile che tu citavi è classico, frutto di una precisa scelta politica, quella di creare un fronte allargato ma allo stesso tempo compatto di paesi emergenti che interagiscono tra di loro attraverso accordi di libero scambio, joint venture e un'attenzione amplificata, moltiplicata nei confronti di grandi mercati come l'Iran. In questo complesso scenario, ecco, la situazione per le economie europee, in particolare italiane, sta inevitabilmente declinando a tuo avviso, o siamo ancora nel tempo delle scelte possibili, diciamo? I dati ci dicono che dal 2005 in poi l'export italiano in Iran è andato progressivamente declinando. Quindi è in atto quel processo di sostituzione che dicevamo prima. C'è anche un discorso di natura finanziaria che sottolineerei, è il fatto che le banche italiane non operano con l'Iran, e per operare con l'Iran bisogna rivolgersi a grandi banche estere internazionali. Ecco, è un mestiere questo che le nostre piccole e medie imprese non sanno fare, non hanno imparato a fare, e quindi sono in difficoltà nel relazionarsi col mercato iraniano. Ecco, questo scenario che descrivi peraltro mi suona familiare, perché ricorda i commenti degli imprenditori italiani, soprattutto dei piccoli medi, anche in Cina stessa, in Oriente, insomma un percorso che purtroppo conosciamo bene. Assolutamente sì. il discorso delle banche italiane poco presenti all'estero è una costante, forse con l'eccezione dell'Est Europa, anzi sicuramente con l'eccezione dell'Est Europa, dove le nostre banche sono ben presenti. Bene, io ringrazio Alfredo Sessa che ci ha aiutato questa sera a capire quali sono gli interessi, a capire perché in questa partita di fatto gli Stati Uniti abbiano una posizione assolutamente particolare, mentre altrove gli interessi nazionali dei paesi emergenti soprattutto spingano in altre direzioni. Non mi resta che ringraziare come sempre Peter Bescapè che questa sera è in regia con noi. Ricordarvi a www.radio24.it per sentire e risentire questa e le altre trasmissioni di Radio 24 e augurarvi un ottimo fine settimana.